L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti da Achille Corea, mercoledì 8 agosto, puntata numero 8 dell'Italia vista dallo spazio. Ormai estate inoltrata, un periodo dell'anno in cui è molto importante la vita sociale e la gestione del tempo libero, perché se siete in vacanza volete fare tutto quello che non siete riusciti a fare durante l'anno. Se rimanete in città avete il bisogno di uscire e incontrare gente per combattere il caldo e lo stress. Noi parleremo di questo in un certo senso oggi, quindi vi voglio attivi all'800240024, ma prima di cominciare, posto numero 7 in attesa di assegnazione. Continua la nostra missione, noi ogni giorno cerchiamo una cosa da salvare dell'Italia in una determinata categoria per infilarla nella nostra navicella spaziale virtuale e portarla nello spazio dal 31 agosto. Ieri abbiamo parlato di prodotti tipici, c'è stato molto campanilismo, devo dirlo, vabbè, ci sta, è normale, ognuno ha chiamato per i prodotti delle zone, insomma, di provenienza, e però c'è stata una cosa ovviamente che ha preso voti da un po' tutta Italia, cioè la pizza. Allora, visto che comunque nella pizza ci potete mettere anche tutte le cose che avete votato ieri, la mozzarella, gli oli, i vini, i formaggi, la mortadella, e visto che la pizza già era stata beffata per pochi voti nella puntata sulla cucina, facciamo così: al secondo tentativo entra nella nostra navicella la pizza. Posto numero 7 assegnato. Sì, a stronzi, dossati, che fate, dannati, mutato. Mirke Mara. A stronzi, dove state? Che fate? Dannate. Che locale? Prognosi riservata. Ai faccia, siamo mai state al prognosi riservata? Negativo, si può fa. Dice che si può fa. Ciao. Questa era la preparazione per l'uscita di Carlo Verdone e la Gerini nel film Viaggi di nozze. Beh, era parodistica, era forzata, però insomma, diciamo la verità. Noi italiani avessimo tutti i difetti, siamo socievoli, ci teniamo a stare insieme, ci piace uscire, ci piace incontrarci, ci piace darci appuntamento soprattutto. Quando due persone si incontrano dopo un po' di tempo, quando si salutano c'è sempre l'immancabile: oh, mi raccomando, non facciamo passare un anno, sentiamoci, vediamoci, usciamo, beviamo una cosa, mangiamo una cosa. Forse non siamo tutti così, ma sicuramente questa è un'immagine molto diffusa del nostro paese e di noi italiani. Allora io ho pensato che in questa navicella spaziale virtuale che noi stiamo preparando dovremmo metterci dentro anche un invito, perché mi piacerebbe che chiunque troverà questa navicella e guarderà quello che c'è dentro avesse un invito per poter venire a qualche nostro evento, appuntamento, e capire come siamo fatti noi italiani. E a questo punto però c'è la domanda: dove li invitiamo? Quale appuntamento scegliamo? Prendiamo un caffè al bar? Li invitiamo a casa? Un aperitivo? Un brunch? Un lunch? Il cenone di Capodanno? Insomma, è una scelta importante, perché in base all'appuntamento capisci che tipo d'Italia hai in mente e capisci che cosa potrebbe scoprire questo alieno, questo straniero del nostro paese. Quindi questo è quello che vi chiedo. Su Facebook, la nostra pagina Italia vista dallo spazio, su Twitter potete usare l'hashtag cancelletto dallo spazio, soprattutto chiamateci all'800240024 e diteci dove lo invitereste questo alieno, che invito mandiamo nello spazio. E partiamo da un'idea che mi è venuta. Siccome secondo me non è tanto importante che l'appuntamento che scegliete sia l'appuntamento preferito, ma che sia quello in cui noi emergiamo un po' meglio, ho pensato a una festa che non è solo una festa. Per chi viene invitato spesso è proprio un obbligo, uno sforzo. Per chi invita è proprio un investimento di soldi, di tempo, di nervi. Stiamo parlando del matrimonio, o meglio del ricevimento del matrimonio. Secondo me potrebbe essere una buona idea invitare l'alieno a un matrimonio italiano, però ci vuole una persona che ne capisca per parlarne. Quindi io ho pensato di chiamare un famoso wedding planner che conduce anche l'omonimo programma The Wedding Planner su Real Time. Per questo ho chiamato Enzo Miccio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Achille, buongiorno a tutti i radioascoltatori, come stai? Bene, bene, io da meridionale, tu mi capisci, io vorrei che noi si mostrasse l'italianità attraverso il ricevimento del matrimonio, perché secondo me lì emerge bene, ma ho anche un po' di paura, perché poi so che è una situazione in cui a volte mostriamo il meglio e a volte mostriamo il peggio. Anche il peggio, sì, è vero. E il matrimonio è sempre questo coltello a doppia lama, perché può essere bellissimo, può essere terribile, e in ogni caso comunque credo che in Italia sia ancora l'evento con la E maiuscola, l'istituzione, no, nella vita di ogni italiano, arrivare al matrimonio come una sorta di traguardo quasi. Cioè, come dicevi tu, chi ci mette per una vita intera, chi aspetta questo momento, possa essere la sposa o semplicemente i genitori della sposa, capisci, che aspettano il momento per coronare il sogno della figlia. Senti, secondo te il matrimonio, il ricevimento soprattutto, di questo stiamo parlando, è una caratteristica italiana? Negli altri paesi lo vivono in una maniera diversa, magari anche un po' più leggera? Assolutamente sì, tu considera che comunque, come giustamente hai detto tu, scendendolo in due parti, cerimonia e ricevimento, ricevimento è la parte più sentita, perché comunque l'italiano sta a tavola, l'italiano adora la cucina, da nord al sud, no? E quindi fondamentalmente nella concezione dell'italiano medio, il matrimonio non è altro che il banchetto di nozze, non è nient'altro che mettere a tavola tante belle persone e farle mangiare tantissimo. E quindi sì, poi lì c'è la caccia all'invito, cioè la caccia ad essere invitata a tutti i costi, a posizionarsi nel tavolo più importante, far parte dell'entourage più vicino alla sposa, si riesumano amicizie o parentele lontane, cioè capisci, c'è tutto un giro incredibile. La composizione dei tavoli è una scienza. È una scienza imperfetta, perché non quadra mai il cerchio, perché c'è sempre la zia che non sappiamo dove mettere, quello single, no, che non sappiamo come mettere, i coniugi che si sono appena scoppiati e non sappiamo come fare per non farli incontrare, sai, purtroppo la sala è solamente di 200 metri quadri, però non fare incontrare due coniugi che si sono appena separati è un delirio, il papà vuole sedersi vicino alla consuocera, cioè veramente il momento del plasma è la cosa più difficile. Senti, come siamo messi secondo te? Cioè, se dovessimo mandare veramente un invito, diciamo, tra degli oggetti che noi scegliamo come rappresentanza, come simbolo dell'Italia, se dovessimo veramente mandare un invito al matrimonio, mediamente, che figura ci facciamo? No, devo dire che ci difendiamo molto bene, in media ci difendiamo molto bene. C'è da dire, voglio dare solo un consiglio. Fare attenzione, perché nel matrimonio sai qual è il problema, il vero pericolo, che si tende a strafare, perché si investe tutto in quella giornata e quindi si oltrepassa con una facilità incredibile la linea del buon gusto e si sfocia nel pacchiano, nel kitsch, e questo è il vero pericolo, visto che tu ne approfitto di te oggi per lanciare questa cosa, ragazzi, sobrietà. Il matrimonio è sì un evento, ma lo si può fare con grande gusto. Ci fermiamo un passettino prima, magari. Fermiamoci un passo prima, esatto. Senti, se dovessimo mandare così in rappresentanza di questo evento sociale un oggetto, che ne so, cosa potremmo mandare? L'invito, il classico bouquet, qual è il simbolo del matrimonio italiano? No, non è la bomboniera. Ah. Io faccio matrimoni incredibili, molto belli, importanti, eccetera, ma il vero problema da affrontare, da risolvere, è la scelta della bomboniera. Si fanno riunioni, si sprecano ore a pensare a qual è l'oggetto che possa magnificare al meglio l'immagine di questo matrimonio, e quindi si spazia dall'argenteria alla cristalleria, alle cose più futili a quelle più utili. Veramente la bomboniera molto spesso rompe anche le famiglie, quelle della sposa che vuole la cornice d'argento, lo sposo invece vuole semplicemente una scatola di confetti. Veramente faticoso. La scelta della bomboniera per me è la cosa traumatica. Ti capisco, perché di tutti i matrimoni a cui sono stato, io alla fine in casa ho ottenuto due bomboniere che incredibilmente uso, e le altre le tiro fuori quando viene a casa quello che me l'ha regalata, lo confesso. Sì, sì. Grazie Enzo Miccio per essere stato con noi. Ricordiamo anche il suo libro più recente, Matrimonio da favola, stile e sentimento tra sogno e realtà, uscito con Rizzoli nel 2011. Lì ci sarà daranno anche tanti altri consigli, ne abbiamo bisogno. Grazie Enzo, alla prossima. Assolutamente, buona giornata e buona estate a tutti ragazzi. Senti, facciamo una cosa, tu pensaci un attimo pure per il regalo, continua a vedere, a me va bene tutto quello che tu fai, amorino mio, bello. Io vado da Amede che c'è Giorgio che sta male con quella cosa che mi hanno detto. Allora va benissimo, sì. Guarda, va benissimo le bomboniere, il cacciatore, il cane, no. Va benissimo. Io ho già lasciato tutto quanto qua. Amore, guarda. Va bene pure il bambino. No, va benissimo il cacciatore e il cane, guarda, amore. Io ho già lasciato tutto quanto a me qua. Che poi Raula, ti prendi Raula, Raula. Ci scusi, sta perché mi morito sempre fretta, per me non ha mai tempo. Bella, amore. E visto che Enzo Micci accennava al clamoroso problema delle bomboniere, questa era una litigata di Massimiliano Troisi e Francesca Neri nel film Pensavo fosse amore, invece era un calesse proprio sulle bomboniere. Allora, 800240024, a quale evento, a quale appuntamento invitiamo questo alieno per fargli capire come è fatto un italiano, come siamo fatti noi italiani? Qual è il momento in cui rendiamo di più o rendiamo peggio? Quello sempre dipende dalle vostre idee, dalla vostra, diciamo, volontà di rappresentarci in qualche modo. Magari volete essere più sinceri, magari volete prendere il momento in cui, diciamo, diamo il nostro massimo o il nostro minimo. Questa mattina abbiamo anticipato l'argomento sulla nostra pagina Facebook. Paola ha scritto che secondo lei l'appuntamento è un aperitivo a buffet sponsorizzato e a scrocco libero, e questo insomma probabilmente vuol dire qualcosa. Emanuele invece propone il pranzo la domenica con le pastarelle, insomma una visione nostalgica ma che ci sta. Sentiamo invece la scelta del nostro prossimo ospite, è Marianna Aprile, una giornalista del Settimanale Oggi. Grazie per essere con noi, Marianna. Grazie a voi, buonasera. Marianna, allora, qual è intanto la tua scelta? Tu che invito manderesti nello spazio? Un invito a cena. A cena è il momento? Assolutamente, questa aliena lo invitiamo a cena, solo a cena si conoscono gli italiani. Ma perché? Perché aprono le loro case o perché ci tengono molto? Ma perché intanto perché la cena arriva in una fase della giornata per definizione in cui si è un po' in disarmo tutti quanti, no? Cioè tutta questa ansia performante ce la siamo scrollata dalle spalle, arriviamo a casa, ci mettiamo a tavola e lì viene fuori l'italiano vero, cioè se devi spiegare un italiano a un alieno è lì che lo devi portare, a tavola innanzitutto e alla tavola di casa. Il famoso desco, una cosa tutta mediterranea che però non come dire, alla radice antichissima ma non accenna a morire. Noi ci mostriamo davvero solo davanti a un piatto di pasta o a qualcosa, a un alimento che ci rappresenti altrettanto degnamente. E lì vengono fuori tutti i caratteri dell'italianità, no? C'è il cialtrone, l'istrione che intrattiene i commensali, c'è il timidone che sta in un angolo, ci sono tutti i tipi italiani, basta mettersi a tavola, vengono fuori tutti. Secondo te siamo sinceri oppure ci costruiamo molto sopra? Perché io ho l'impressione che una buona parte dell'attuale palinsesto televisivo sia fatto da programmi che ti insegnano come mettere su una cena, come invitare gli ospiti, come sistemare casa. Ma quelle sono cose che vanno bene one shot, diciamo, no? Cioè chiunque di noi credo che almeno una volta per fare bella figura si sia messo lì a fare il centro tavola, il nodo al tovagliolo fatto bene, le 27 forchette, i 12 coltelli, dopodiché però la cena vera è un'altra cosa, a regime nessuno fa quelle robe lì, dai, ammettiamolo, è troppo impegnativo. O se lo fa cerca sempre di mostrare che non le ha fatto, il classico è guarda scusa ho fatto due cose che avevo due in frigo. Al volo, sì, come no, magari sono di rosticceria poi, cioè, quello. Io ce l'ho sempre il dubbio che alcuni comprino delle cose, però voglio dire, tutti questi programmi di cucina. Il segreto è sbirciare nel secchio di immondizia, guarda, io l'ho fatto un paio di volte, ho sgamato più di una persona che mi lantava pomeriggi interi a cucinare. Questo però è veramente un atteggiamento da ultra italiano, un atteggiamento da James Bond, andare con una scusa e buttare l'occhio nel secchio dell'immondizia. Beh, è un atteggiamento molto italiano anche dire di aver cucinato quando sei andato in rosticceria, comunque, quindi è un pareggio. Senti, un punto su cui io sono sempre dubbioso, che si porta quando si ha questo alieno, però cosa gli diciamo di portare? Ah no, l'alieno deve venire, come si dice a Roma, deve bussare coi piedi, deve avere le mani impegnate da almeno da un dolce tipico del pianeta da cui viene. Cioè l'invito a cena è sempre uno scambio soprattutto culturale oltre che culinario, quindi io mi aspetto porti cibo, niente fiori ma opere di bene. Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. Io, andate, andate. La storica tirata di Nanni Moretti, Necce Bombo al telefono, vengo o non vengo, ma che festa è, ma mi si nota di più, probabilmente oggi la rifarebbe dicendo ma vengo così mi faccio taggare su Facebook, o non vengo, sto a casa e twitto ma sai non ho voglia di venire, oppure sto da un'altra parte, ho un impegno, metto una foto finta. 800 24 00 24, diteci qual è, diciamo, la vostra uscita preferita, il vostro appuntamento preferito, quello che dice di più soprattutto di voi italiani. Marianna Aprile, di nuovo con noi, ci sei. Eccoci. E quello che ti volevo chiedere questa volta è un voto contro, per chiudere, c'è un'antipatia. Qual è invece a te l'uscita che proprio non piace? Qual è il momento, che la moda che non che o non ti piace più o che non t'ha mai convinta? Lo dico alla Moretti? Sì. La pericena, cioè abbiate il coraggio delle vostre azioni, o si fa un aperitivo o si fa una cena, ma la pericena è veramente la degenerazione delle relazioni sociali. Cioè l'aperitivo si fa per avere un appuntamento che preveda vie di fuga, no? E che non sia troppo impegnativo, cioè una relazione sociale, uno scambio di per sé molto superficiale e molto poco approfondito. L'idea di trasformarlo, se va bene, in una cosa che si prolunga fino a, come dire, saziare la fame al pari di una cena è un'ipocrisia, cioè invitami a cena. Io direi anche che bisogna avere il coraggio delle proprie azioni anche nei nomi. Io ho visto posti in cui, per non dire che fanno il brunch, che probabilmente è un nome troppo americano, dicono che fanno il colanzo, cioè la colazione pranzo. Cioè, abbiate... Il colanzo sembra una malattia infettiva, ragazzi, cioè non va bene, non viene nessuno. Facciamo il brunch, per chi lo sa dire. Sì, sì, ma, no, ma ormai si sa, perché tra l'altro, grazie a una nota pubblicità che non citerò, Teresa Mannino ha spiegato a tutte le signore italiane che cos'è il brunch, quindi adesso secondo me lo sanno tutti. Un po' come hashtag, che dopo Fiorello su Rai 1 è stato sdoganato, sanno tutti cos'è il brunch. Marianna, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E buona estate, buona uscita anche a te. Si può sapere dove sei stato fino a quest'ora? Oh, ma lo sai qual è il mio lavoro? No, faccio il PR. Lo sai che vuol dire PR? PR, Public Relation. No, PR vuol dire porti rogna, perché quando fai le feste te non viene mai nessuno. Vabbè, comunque io ho lavorato tutta la notte, no? Perché ho organizzato, sai quelle feste, i rave? Cosa? I rave party. Sai quelle cose che ti organizzi fuori, lontano, e che nessuno sa l'indirizzo e te lo devi trovare da te? No? E come andava? E uno mi ha trovato. Ecco. Se per questo c'è anche qualcun altro che non ha trovato. E bisogna, questo intanto era Panariello dal film Bagnomaria, nella sua interpretazione memorabile del PR della discoteca Chi ti caca di Orbetello. Bisogna ammettere che quando la televisione e il cinema si mettono a presentare il mondo della discoteca, ne fanno sempre un'interpretazione parodistica, oppure si parla di cose tragiche, di un mondo di perdizioni. Però l'uscita in discoteca è indubbiamente una delle uscite più amate dagli italiani. Come facciamo a non citare il sabato sera in discoteca, ma non solo, anche una qualsiasi altra serata in cui si va a ballare? E per questo abbiamo un altro ospite, è una donna che mentre cercava di fare l'attrice ha fatto tantissime cose, tra cui la vocalist in discoteca e un blog su Panorama che si chiama Chic & DJ e parla soprattutto di DJ e del mondo della notte. Andrea De Logo, benvenuta. Grazie per avermi ospitato. Allora, Andrea, intanto da Rimini, quindi insomma tu sei, sei praticamente nata in discoteca. Cioè, prima la piadina, poi la discoteca. Sono le basi, i capisaldi. Senti, la prima domanda che ti faccio è, secondo te nell'uscita in discoteca si dà il meglio e il peggio? Che figura fanno gli italiani? È proprio borderline. Si cerca di dare talmente tanto il meglio che rischi, se bevi un po' di più, di dare il peggio, perché poi c'è quello scalino che ti fa diventare ridicolo. Ma se riesci a rimanere sotto, allora sei fichissimo e torni a casa che sei felice e magari anche cuccato. È diciamo tutta una questione di alcol, detto così. Io penso quasi, guarda, ormai sono 8 anni che ne vedo di tutti i colori in giro per l'Italia. Penso che sia tutta una questione di alcol, perché quando arrivano in discoteca sono tutti fantastici. Le donne si preparano da ore e ore prima, vestiti comprati magari qualche giorno prima, giusto per quella serata. Poi a fine serata veramente vedi delle cose che da mettersi le mani nei capelli. Che forse siamo in fascia protetta, non lo so. Adesso chiedo se siamo in fascia protetta, possiamo raccontare qualcosa. Gira tutto intorno alle donne. Mi verrebbe da pensare che tutto il mondo della socialità gira intorno alle donne per gli uomini, però sì, gira tutto intorno alle donne il mondo della discoteca. No, in realtà in questo periodo siamo migliorati in Italia. In questo periodo davvero si stanno muovendo per i DJ, quindi sta veramente muovendosi una massa semplicemente per la musica. Poi è chiaro, se dentro la discoteca mi vedo la ballerina stupenda o c'è una clientela meravigliosa, femminile, beh, l'occhio vuole la sua parte. Però sono molto felice perché io sono un amante della discoteca e ultimamente è la musica la cosa più importante. Senti una cosa, il mondo delle discoteche, c'è una diciamo diatriba classica, c'è il mondo delle discoteche italiane, che punto sta rispetto a quelle straniere? Siamo insomma indietro, avanti? Perché poi il mondo delle discoteche è anche un'industria, un lavoro, un comparto di business, visto in che radio siamo, lo devo dire. Guarda, io ti ringrazio per averlo detto, perché c'è una paura per chi non fa parte di questo mondo, chi l'ha visto tanto tempo fa, che è ingiustificata. Tocca la discoteca da lavorare a tantissime persone e ti posso giurare che la maggior parte sono persone, guarda, veramente straordinarie e sane. Ma quello che ti devo dire è che in Italia ci sono delle discoteche veramente al pari di discoteche di Miami, al pari di discoteche di Berlino, di Londra. Ma è chiaro, come in tutti i paesi siamo grandi, ce ne sono altre che insomma sono un po' raffazzonate, hanno una console del cavolo e cercano di fare la serata come possono. Però devi avere la fortuna di andare nella discoteca giusta. Ci sono dei professionisti che fanno questo lavoro. E quindi insomma ci difendiamo, mi sembra di aver capito. Ci difendiamo, ci difendiamo. Andrea, te la senti di fare l'appello agli ascoltatori che poi su Facebook voteranno per il mondo per l'uscita in discoteca come diciamo appuntamento sociale da votare per la nostra Italia vista dallo spazio? Guarda, me la sento, anche perché l'uscita in discoteca al fine settimana cioè, tutto è motivato per quello, sia che vai a fare l'aperitivo o la pericena o la cena, tutto porta poi a raccogliere tutti gli amici, arrivare in discoteca e essere splendidi. Quindi mi raccomando, sappiate votare nel modo migliore, anche se io adoro Miccio, che è fantastico. Cioè, ti ha quasi convinto per il matrimonio. Io voterò per lui, ma voi votate per me. Va bene. Ok, grazie ad Andrea De Logu, grazie per essere stata con noi. Grazie a te, un bacione, ciao. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze e l'Italia è questa qua. Una cosa che mi fa pensare quando parlo ormai di uscite è che mi tocca scegliere anche a me nella vita reale, perché una volta facevo pizza, cinema, uscita in discoteca, cornetto alle 6 del mattino. Ormai lo devo ammettere, devo scegliere. Marina da Twitter vota per il cenone di Natale. Beh, questo è impegnativo, ma è uno dei voti che è arrivato dal nostro hashtag cancelletto dallo spazio, e quindi gli abbiamo dato spazio. Ho detto troppe volte spazio. Invece adesso dico Marilena da Roma, benvenuta. Buongiorno. Marilena, per cosa votiamo? Beh, anch'io per il cenone di Natale o la domenica, il pranzo della domenica. Cioè, tu vuoi roba impegnativa comunque? Sì, perché in famiglia è bello, si discute, però ci si ama lo stesso. Ci si ama lo stesso. Io avevo un voto su Facebook, lo cito, guarda, Susanna aveva scritto una mega tavolata genere lunedì di Pasqua in cui tutti si amano e si sorridono e appena finita la digestione se ne dicono di cotte e di crude. Io direi magari finita la digestione, a volte la digestione dura 3-4 ore e se ne dicono di cotte e di crude anche prima. Tu non hai questa esperienza, Marilena? Sì, magari si inizia prima litigando e poi si finisce mangiando e ridendo tutti insieme. L'importante in questo caso credo che siano molti amari, molti sì. Amari. È una questione digestivi. È una questione di alcol, come diceva prima. Marilena, qual è il pranzo di Natale tipico di Roma? Perché sai che io poi alla fine Natale non lo faccio mai a Roma, non lo so. Io sinceramente non è che si rispettano molto le tradizioni, però tu dici a livello di pasti? Un piatto, sì. Un piatto, mi sembra che si inizi con un brodo di carne. Ah, va bene, allora è classico. Sì. Grazie Marilena. Grazie a te. Sempre da Roma, Pierluigi, pronto? Ciao, buonasera. Qual è la tua scelta? La mia scelta per il momento della giornata ideale è l'aperitivo. Ah, e poi da Roma, invece l'aperitivo noi lo diciamo sempre aperitivo, lo diciamo sempre alla milanese. Sì, perché l'aperitivo si pensa a Milano, invece anche a Roma oramai ha preso piede. È un momento, un po' è un rito oramai, almeno nella mia comitiva, sia d'inverno che d'estate. Che dopo il lavoro usciamo dall'ufficio, ci si vede spesso a Campo dei Fiori, da Campo dei Fiori e Trastevere, ci sediamo, beviamo, d'inverno la birretta oppure un Negroni, sappiamo se è venerdì ci possiamo concedere un po' d'alcol in più, d'estate è una questione di alcol, sì, grazie per Luigi, vado in chiusura, è una questione di alcol, si è capito, però state calmi, sennò poi se la prendono con me. Grazie ad Alessandro Chiappini, grazie a Antonella Migliaccio, vi invito a continuare a votare su Facebook e su Twitter, ovvia mail, grazie a tutti da Achille Corea. Posto numero 8, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.